Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1864. Crocco finisce in carcere, il brigantaggio è in crisi. Il brigantaggio non è certo sconfitto. Non ne sono sconfitte le ragioni profonde, anzi la scollatura fra paese reale e paese legale al sud si è approfondita, ma la repressione può enumerare lo stesso i suoi successi. Ora anche il temibilissimo brigante Carmine Donatelli Crocco è stato messo fuori gioco. Non però come speravano i generali dalle pallottole di un plotone di bersaglieri. Crocco è invece finito nelle carceri di un acerrimo nemico della Nuova Italia, il Papa Pio IX, presso cui aveva cercato inutilmente rifugio. Come è potuto succedere? Sul suo capo le autorità avevano messo una taglia da 20.000 lire. Intanto l'esercito, durante l'estate di questo 1864, lo ha messo alle strette, grazie anche alle delazioni del suo ex luogotenente Giuseppe Caruso, che ha tradito forse per ragioni di interesse, forse per una questione d'onore che vede al centro la brigantessa Filomena Pennacchio. Premiato dal governo italiano con una pena molto leggera e diversi denari, Caruso, che ora spera persino nella grazia reale, ha reso possibile la cattura di diversi suoi ex compagni e soprattutto l'isolamento di Crocco. Si è rifugiato in quella chiesa diroccata. Forse sarà meglio chiamare i rinforzi. Lui lo sa bene che l'abbiamo seguito. Ecco perché. È la vecchia strategia. Su quel costone c'è Crocco. Questa volta prendiamo due piccioni con una fava. Abbiamo rinforzi qua attorno. Sì, certamente. Il 16° bersaglieri a mezz'ora. A giugno i soldati sono sulle tracce di Crocco. Lui sfugge per l'ennesima volta, ma decide che il rischio è ormai eccessivo e tenta la fuga verso lo Stato Pontificio. Qui giunge tra mille pericoli scampati alla fine di agosto. Spera nella salvezza, invece il governo del Papa non lo considera un combattente per i sovrani legittimi, bensì un fuorilegge. Crocco viene incarcerato senza processo per evitare polemiche pericolose. Gli sono sottratte 19.800 lire. Qualcuno sostiene che siano finite nelle tasche dello stesso cardinale segretario di Stato, Antonelli, ma queste sono voci forse influenzate dalla propaganda antipapalina degli italiani. In ogni caso, il governo di Torino canta vittoria. Il presidente del Consiglio Minghetti aveva invocato l'utilità di un salutare terrore. I risultati ci sono in termini di arresti e di briganti morti, ma anche la legalità democratica e lo Stato di diritto sono morti in questi mesi al sud. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.